dal capo della culla di San Giovanni, dove c'è il blindato che brucia una carica, e la polizia si è attestata sul portone della curia. Cioè c'è un blindato che brucia dal lato della curia? Sì, e la polizia si è attestata sul portone proprio della curia. Adesso dai blindati, facendo alcuni caroselli, andando da via Emanuele Filiberto alla curia, e stanno un'altra volta, hanno chiuso un'altra volta, almeno non ci fanno andare nelle strade che stanno vicino alla curia, diciamo direzione via dell'Ambradan, per capirci. L'unica via d'uscita aperta mi sembra ancora San Giovanni, mi sembra ancora via Appia. Io sto in quell'imbuto famoso che avete scritto prima, ma è la curia, non li vedo, raga. Che vi devo dire, queste sono informazioni che ci arrivano, io possiamo soltanto porgervele, ma non è che ne abbiamo certezza. Guarda, allora i blindati stanno entrando adesso verso San Giovanni, cioè stanno entrando proprio in piazza, stanno in piazza. Dove entrano? L'impressione, sì, stanno entrando in piazza. Guarda, sì, ma da dove? Da quale direzione? Via dell'Ambaradan entrano verso San Giovanni, che da via Emanuele Filiberto entrano verso San Giovanni. Verso San Giovanni. Stanno ricongiungendo alcuni plotoni tutto lungo l'arco, quello dorato di San Francesco, per capirci. Si stanno ricongiungendo là in mezzo, ho paura che fra un po', insomma, c'è carico e ci portano verso piazzale Appia, diciamo, verso via Appia per... Ma vi portano, nel senso che vi spingono, vi portano dentro i blindati verso piazzale Appia? No, non è uno scherzo, no, era solo una battuta, ma sul serio, la situazione è veramente drammatica, io no, immagino. Guarda, per concludere, insomma, in sintesi, se si stanno concentrando adesso, la polizia sta facendo manovre di concentramento su via dell'Ambaradan, per capirci dove c'è l'obelisco, e da via Emanuele Filiberto gli mandano rinforzi, e hanno costituito adesso due grandi blocchi, uno che sta via dell'Ambaradan e uno che sta via Emanuele Filiberto, più quello a Viale Carlo Felice, che mi sembra però fermo e fa defluire la gente dai giardinetti. L'unica via d'uscita che mi sembra adesso, che mi sembra al momento, diciamo, fruibile, sono gli archi della porta di San Giovanni verso Viale Appio, però a Viale Appio proprio ci stanno i blindati, quindi questi deve chiarissimo, va benissimo. Gli aggiornamenti vanno bene, purtroppo noi qui, oltre a riportare un po' la geografia